dico fermate. Lento.

allineo con le opinioni circolanti. Quindi non decido se emozionarmi o meno. Io credo che il nostro lato emozionale segua un suo percorso, non dettato dalla ragione, per fortuna. Stai ascoltando The Final Countdown, il folclorista. D'Agostino dal vivo questa sera, venerdì 24 febbraio 2006, ore 21, discoteca Carlo Vilazne, Smetanovo na Brezzi 198, Novotny Olavka, località Praga 1, Repubblica Ceca. Repubblica Ceca. Cosa stiamo ascoltando, fratello? Más Fuerte, Uomo Suono. Thank you. A questo di Gigi D'Agostino. Ascoltando. Bagar, artista non pervenuto. l'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo domani sera, sabato 25 febbraio 2006, ore 22:22, discoteca Palladio, via Lipova, località Most, Repubblica Ceca. Terapia comportamentale del suono. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il suono buono. Bella Gigi. I bambini non temono il giudizio di nessuno, perché sono grandi. Ecco perché sono liberi. Ascoltando Moonlight Shadow, Luca Noi. Lo stato puro, da ripire sicuro. M2O. Per non subire un qualcosa, devo essere sicuro di aver scelto liberamente quel qualcosa. E sì. Celebrate you.

left and never looking back. Rings on your finger, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl to me. Rings on your finger, pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it, you will win. Walk away, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you've got a brand new friend for your life. Thank you. programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Già poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. Se lo fa, sa quel che fa, chi lo sa, quando che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie, chi lo sa, quando che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie, chi lo sa, quando che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio, nessuno sa qual è la soglia per poter dire mi amaci un taglio, chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Stai ascoltando Lo Sbaglio, Dottor Guy. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Solo una maglia, non c'è canzone, senza lo sbaglio. Oh,